nostro barcone. Ha fatto lui lo smitto da Gaza e è andato davanti e ne ha trovato l'arachino. Addirittura. E tu perché stai scendo così? Come così? Un mattato in bocca vai. Come il patato in bocca? Che schifo di ragazzo, che non che lo metti in baraccoccia con una volta. Ma sei buffonendi o cosa? Io ti registro e ti faccio ascoltare, il padrino è una patata in bocca. È come che pare con pizza con la cartabina. Attore, ma stai scherzando? Come così a buffonendi? Cioè. Cioè, non ho problemi, mi. Cioè, io sto facendo una radio seria, cioè, non sto facendo con cose di pittura. Tu che scendi flacco, tu che scendi io, me. Flacco sta facendo bene, tu fai schifo come radio. Non ho mai, in assoluto il male non lo dico mai. Non uscire bene, vabbè, fai un cazzo di vuoi, rimane con questa cosa che ti avrebbe dato una fregatura, ma che le dai. Ma se è vero o se è buffonente? Cioè, allora, io ti registro e poi te lo faccio sentire, va bene? A me non dire di cazzate. Cazzo, ma perché bisogna dire che sta facendo bene quando sta facendo male? E che cazzo? Sì, io, cioè, tutti mi hanno detto che è una bomba, cioè, sto uscendo una bomba. Io non so perché tu mi ricevi così. Sì, anche più basso il segnale, più a base. Stavo uscendo una bomba, chi te l'ha detto? Lo so io chi te lo aver detto, chi tanto con l'apparato, e allora lascia perdere. Guarda, io mi sono ascoltato, mi hanno mandato la registrazione, cioè mi hanno mandato la registrazione da poco e non è così. Cioè, non penso che sia così, perlomeno. Adesso troppo le cuffie, passiamo, e diritto. Anche a me di cazzate, non mi piace. Dalla torno. Però senti, io ti l'ho preso per il culo. A me non mi va che ti prendo per il culo delle persone GP. E che cazzo è? Allora. Che cappa, ora vedere come esco, 1, 2, 3 prova, mandami la registrazione tua, io l'ho già sentita da un'altra parte, non mi sembra così male. E invece ha la patata in bocca, ho detto. Non è chiaro come è, tira avanti Franco, poi dice tira Franco, è perché tra Franco e te. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3. E guarda, Franco è perfetto. Cosa ti la dice che tu Antonio che ti manda tutta la registrazione? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Se lo sente in Parigi, va bene. Guardiamo tutto. Io non mi sono sentito, non mi sembrava così male, no? Sì, tra un dire, questo momento ma con diavolo. Tu ti sei sentito, come fai tu a sentirti? Io sono fuori tasca, e io ti sento quello che ti percepisco e che ti ascolto. Guarda che io faccio molto ascolto, e quando dico stai uscendo bene, non so perché te lo vogliono dire, ma sei sceso che è un cazzo, stai uscendo male, che cazzo, ma quando vai, sei in mani grosse recuperando un cazzo, vai a fare il controllo di altre persone allora, persone serie, cazzo, ma io non so che cazzo di questo, davanti. piacere, riprendo io. Ah, tu prova a abbassare, non è che stai dando troppi bassi, no? Adesso sta bruciando un po' bugie. Sono tutta la sera a bisciare radio, magari intendo un rumore di Giara, ma cazzo, sono tutta la sera c'è la radio, boh. Lasciamo perdere la pentola che è accesa. La radio è uno schifo, Antonio. Eri più buono di radio quando ti sentivo io tempo fa per comprarti questo apparato qua. Avevo una radio che era stupenda. No, ti decido a ricalcire. Lasciate, riprendo io, dai. Può essere altro che... perché lui sta gridando più le tonie. Comunque non è male come radio, dai. Tu lo scusi, ragazzo, non è male. Non è neanche bene, bene, non è una ripulita come la tua, Franco. La registrazione è sentita. Prova a fare un passaggio, Antu. Allora, magari c'ho la radio troppo alta, no, prova a vedere. 1, 2, 3, prova. Prova a vedere. Abbassa ancora, un altro pilino. 1, 2, 3. A chi ha giunto un caldo? Aspetta. Ora, 1, 2, 3, prova. Ecco qua. Com'è? Abbassa ancora la radio, poco fa sta uscendo meglio. Abbassa un po'. Resista un attimo. Prova adesso, migliore. Adesso per me può andare, vero Tony? Chiaro. Eh certo, Marubizio la sa, stai sempre docca a docca, cazzo. E cani docca di nuda. Che mai che ti cazzati? Io sono con la mano alla Siria. E se stai uscendo male, dico, stai uscendo male. Hai regolato male, quello che vuoi, però stai uscendo male. Perché adesso hai toccato e sto uscendo bene. Adesso ti ascolto bene. Anche io si conferma. Adesso va benissimo tu. 9.35, radio 5, pulita, bella. Loro Duccata, come ti è? La colpa è la mia, perché non lo so, ma può essere la mia, ma non lo so, magari è Duccata appena, non lo so. Tutte le prima non prendi, Artur, lascialo stare come te l'hai. È tarato così, non lo toccare, eppure io sono bocca a toccare, cazzo, sciumare da buio. Se io aumento un vatto, ti vado a strappare e si mangia la radio. Ma a me cosa me ne viene a dire che sta facendo bene o male? Io voglio sentire una persona come si sentivo sempre a sogno. Adesso che si male, te l'ho detto, se è vera per incantarmi, ne ho due figli. E che si sentire bene a persona. A me non me ne viene nulla in tasca, tu, perché si sta facendo bene o male. Adesso che è regolato, è perfetto. Sicuramente ha giudicato qualche cosa. Adesso ho capito cosa è successo. Adesso va bene. Cosa è successo? Praticamente poco fa ti ha riposto le mani by bagno e chi sei sensibile, basta toccarla appena e si alza di più, compreso. Ma perché ti continuavo a dire che sta facendo bene quando sta facendo male? A me questo mi ha fatto. Aspetta, questa è, riprendo io. Quanti vatti stai pilotando, Antru? Scusa un attimo. No, poca roba. 10 watt. A 10 watt modulati 20. Guarda, altro lo dico parte. Allora, quando tu modulavi prima di apprendere cazzo di apparecchio che hai preso, abbassavo le reteghine, ma le babbi stanziavo 4,5. Adesso mi dici stanzi con zero, ho detto tutto. Sì, ma io non... cioè, se voglio andomi. Ma non... io lo tengo sempre basso, guarda. Farà vedere adesso, com'è? Prova. 1, 2, 3, prova. Da via con zero, a reteghi, a zero, a zero. Cosa che Antonio, cioè, se Franco sta... Ecco. Soltanto quando attaccano roba di 300-400 watt, allora sì, arriva a 7 con 8. Che è raro. Ma io lo tengo basso, no? Non lo tiro di più perché aveva raggiunto appena raggiunto, ma non lo tiro di più perché va bene così, capito? No. Cioè si alza, no, gatta, ma no, non lo faccio io, capito? Aspetta un secondo. Allora, prima di comprare questo apparato che hai tu, dimmi che baracchino avevi e con quanti vatti. Con quello là, sicuramente molto di più. Allora eri sempre attaccato io. Secondo te? Non lo so, io, perché io mica so che la sua faccia aperta. A me piace il liscio, quindi. Adesso io liscio, come ti sta levando? Se 9,5 liscio. Beh, e non ho niente attaccato. 5 fatti. Ma anche io sono, adesso un po' capottento, non sto spingendomi, capito? Ma bisogna attaccare i parte per i scifosti, chissà che tanto. Cioè, a me mi pare che c'è il passone che mi piace i scifosti e palosa, perché se vuol dire che ho la, diciamo, con la potenza normale, uno mi dice, no, arriva solo parte, non mi sento, sentiamo lo stesso. Bisogna attaccare un passo sotto. Allora domani dico per il giornale, mi levate io, avanza, to. Ho il gioco, c'è da me così. Vabbè, io ce l'ho un amplificatore, qualche volta mi piace anche utilizzarlo, Non mi raggio con parado, ma fatenelo in chiave. Però adesso, per esempio, in condizioni normali, eccetera, eccetera, non l'ho tratto, capito? Mi basta quella potenza che ho, mi è sufficiente. E l'amplificatore, come tu lo chiami, che è un signor lineare, ma chi lo si è chiamato lineare? Di potenza fate l'uscita. Io se me lo compro lo userei soltanto in potenza in uscita lontano, fuori, perché i contatti si distinguono con l'acqua, e c'ho le estrazioni, mi sento sacro, mi sento brutto di radio, e questo. Oh, io sono consiglio che sono un vecchio CB, non sono nato a Rivani. In quanto patrotto io ho sistema CB, avendo messo baracchino, tutto lineare, chi non ridate, no, si dice niente. Ecco, si può uscire bene con le persone in cui si trovi nella stessa città e un corpo. Poi, per uscire fuori, se come se si arriva, io più la persona è senza il mazzo, allora puoi cercare la potenza, tutto qua. Bene, sono andato Franco. Ma io ho fatto i correttivi, dai, che sono entrato io. E si conferma, ma scusa un attimo, Antonio esce bene, cioè lui sta sempre toccando, non è colpa della radio, è colpa delle sue mani che ha dei ducchenni, perché adesso sta arrivando bene, non vedo niente in radio 5, poco fa stava strappando, anche io ci aumento il strappo, Tony. Ma io infatti non ho detto, sta uscendo male, ma scoprire di ascolto a poco fa, mi guardavo i film e ascoltavo, sta uscendo bene sulle parti, sta uscendo bene, non è vero, non sta facendo bene, sta uscendo, con un patato in bocca, che è regolato e se sta facendo bene, ma perché dire una cosa che non è vero, quello mi dà fastidio. Vabbè, la colpa, a me mi sono accorto che la colpa era la mia, capito, fra, ma ho capito, la colpa era la mia perché io ho alzato troppo. No, la colpa non è tua, ma bensì delle persone che cui ti ascoltavano e ti dicevano stai uscendo bene, quindi tu potevi mai sapere se stai uscendo bene o male, tutto qua. Avanti Gianni. Buonasera a tutti, ciao Torino, ciao Franco, a tutti, oppure non so se sia altra gente. Sono dentro adesso perché la telefono con le qui, sono trattino. Venga. E vabbè, avete scritto che di chiudere, sono le persone che si sono sbagliate. Non mentre uno è tasca, però mi fa piacere di parlare con la persona che si chiude, non so bene. Avanti Franco. Buonasera, ciao Gianni, buonasera. Gianni c'è dormito, ok, ti ascolto benissimo Gianni, è di radio, vero Tony? Gamba, Gianni, perfetto, vai. Io sto usando le mic normali, l'ho fatto perché se metto l'altro incasinavo tutto come l'ho registrato poco fa, e poi glielo sentire Antonio. Poco fa c'è cose che non me ne sono gabizzato, ci ho buttato le mani poco fa. Raggio Duccato, basta che lo sfiori appena è un casino. Bella Franco, la radio. La bomba sì, già, di russo, vero Tony? Cappa. È così, la radio è meglio la mia. E io lo grido. Trulla nero, trulla là, paravà, cambio. Vabbè Tony, come stai? Guarda, ho seduto. Già sto bene. Anzi, come comincia a camminare. Poi entra in azione, lo spingisco e ciao. Oh, yeah. Stavo dicendo, Tony, ma quella commissione te l'ha data quella persona? Quella commissione? No, accadato, sul mutamelo basso, mando un messaggio, non ho capito. Vabbè, dai. Aspetta, dopo la poco fa io stasera? Cappa. No, niente, zero, non ha nulla. Vabbè, dai, già la passa a me allora, dai. Non lo so. E io Gianni, come radio, bene? Stai andando bene, un bel forte. Non lo riemboziare, c'è sentisse tra gli altri demagogi russi. Quanto ne ha radio arrivato un minuto? Per quello che sto facendo l'acqua. Anche, mi racconto che sta facendo. Voglio impressione che anche se ne va raccolto, te la dai questa roba. C'era uno su internet, 180, non stava là. Pensa un po'. Antonio! Ehi, avanti! Senti che bella radio questa, senti. Però l'ho passata, no? Sei come il taglio Duccardo ancora, Poi l'attacco, tu riguardi a me, eppure c'è il vizio che sta sempre bocca a bocca in radio, aumentavo, abbasciavo e poi strappo. Quelle radio lì non le devi portare mai a manettone, perché strappano. Ma siamo funenti, a manettone non lo vuoi buonino. Sì. Antonio, ti piace la mia radio? Grande a me. Questo è un super signor microfono. Già lo so, però la fai su tutti le radio, la prima cosa principale ci vuole la voce, poi escono, qualsiasi radio può esce bene, se non va la voce no, non esci, e tu già ce l'hai la voce, Tony. E mica siete muti voi, cavolo, io vedo che anche Gianni e Franco la voce ce l'hanno. Tanto io tendo gli occhi sul raggene, ma Rugani. No, è Sara che drummita. Aspetta, tutto si sente, con il microfono per amplificato è un casino. Rugani mia è sul raggene, io vuole, intendi? No, io che è Sara, eh. È poco drum, Rugani, tamagna è drum. A tu, via. Se Sara sa poco, è fatto sentire a te. No, già lo sa, già. Aspetta, ti immagini, si rimbeggia la tutti con un masso di roccio. Quanta maravaglia ce l'hai anche tu? Andemelo buono, in capo. Dove c'è la faccia? Un comodino. Ecco, esatto. Beh, io non ve la giro comodino, c'è una da letto, cosa è? Cosa giù sta fuori a pigliare freddo? Se no attacco la sensazione che vai fuori. Ma hai visto il mobile che mi sono fatto per il baracchino, fai io? Egli. Sì, l'ho visto, già va bene. Già. Ho detto, ma sì, io l'ho messo qua in camera da letto, io ne ho due stazioni. Una camera da letto e una camera da pranzo. Da dove è? Qui da te che da, dove è perché no? Ma a casa non ero comodo, poi a in via Ganda. Ma tu che cosa? Tu bombo tu su, ma che camera da letto, corri su. Comunque Frank, hai migliorato al 100%, nel senso troppa roba via del birriga, capo qua, capo là. Ma non hai visto lo scatto di polo, antennini, che rottura di balle che ti batte di te. Guarda, io mi devo solo augurare una cosa, che quando sono andato in bagno c'era l'antenna in terra, ma con mano nei moduenti, solo il bruciato un muro. Ma se no ti sono uscito in bagno, hai declassato il giro, antenna, se farà da iosso l'antenna. L'antenna della macchina giù, cazzo, un casetto, cazzo non sento più a nessuno, andate a controllare per l'antenna, è vera iosso. Ma come non hai passato qualche macchina? No, era l'altra parte, alla parte dove sono gli alberi, dei giardini, capito? No, se la mette dall'altra parte non ne ho messo, l'ho messo a questa parte. Il vetro l'ha buttata giù, con la magnetica. L'ho poggiata sopra il marmo. A provare a ver se usciva meglio. Poi c'era vento, non sentivo più nessuno, è tutto strano. Hanno fatto quel retti, andarci a mangiare, a ha detto giù lo gioco, ha detto, fate l'antenna agli orsi, non vi grido. Che... Vai già. Fate su di. Gaffa, gaffa. Comunque volevo sentire quel microfono là che avevi fatto stasera. Ma non ho voglia di alzarmi, cazzo. Stavo troppo bene a entrare lì. E domani lo trovo. Oh, no, ci vuole poco mi ha provato. Mi sa che lo prendo e lo provo. Aspetta che lo provo, tu. Gaffa. Ma quant'è caduta quella che voleva Gianni? Cosa? L'antenna che era caduta, quella che voleva Gianni. No, l'altra, quella lunga, la. L'APC dell'800. Ah, ecco perché già l'hai visto. Aspetta che provo quel microfono a vedere come esce, dai. Prova a vedere. E Tyson, cosa fai di? Non mette di a me. Che bello c'è. A me il gare mi viene di. sia aria che sta il subito rubito. Io ho la mia piccolina Lucia con smesso il lume mio sulle gambe e io guardo la televisione. Se si trova, si deve, forse lo che è 4.000 su la casa, mi alzi. No, ma sono colta. Riga. Va bene, e allora Antonio, che ci dice, che ci dice? Che ci dice? Cracco gioco da travaglio, mamma mia. Troppo buo, io ci sono troppo e troppo come si droma. E oggi, capo lunedì, mane, gribato, mane, ero un bel stanco, ero. Ma ho lavorato parecchio, mi, fino a tardi. E specialmente se sali con il mobile 3, 4 piani, 5, senza l'ascensore, ti vuoi vedere? E noi ne abbiamo parecchie, a chi nessuno veniva a rigamme. Capita. Ma tu assicurato, sì. Volte sì, a volte no. No, ma fa il monello? Già che si sia assicurato, che io sono a casa in malattia, perché mi sono operato, e tu mi devi pagare a me. E non dirlo a me. Dirlo anche a un altro, non a me. Allora, se vuoi mangiare così, se no te la abbigli dove non tocca il sole. Vai sbagliato. Io forse perché sono fortunato, non so, sono lavorato assicurato, grazie a Dio. Avanti Gianni. Perché io, a parte i lavori che ho fatto d'estate, che mi trovavo qualche lavoretto così d'estate quando studiavo, quello lì non era assicurato. Se anche se qualcuno mi ha chiesto di rimanere, che mi avrebbe assicurato il tutto, mi avrebbe aumentato anche lo stipendio, ma non ci sono restato perché stavo studiando e dopo di farne a scuola dopo l'estate. Però dove sono stato, poi tutti mi hanno assicurato. Allora io ho fatto ferie nella Vulcula e mi ha assicurato. L'alleanza assicurata, pure c'è un assicurato, io è assicurato. Poi ho lavorato subito al turismo e mi hanno preso subito e assicurato subito. Per 38 ore sono stato assicurato. Ma tu, Franco è rientrato, Franco avanti. Ma dove sta cagata come sta uscendo? È l'ultimo come radio, è forte. Ma va bene. Cosa fa? Dimmi Tony. Fai un passaggio lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3. E limpida come radio buona, però non è forte, alza il volume. Chiara e chiara abbastanza. Franco, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Non è molto criticata però. Sembra normale. Aspetta un secondo, provo l'altra. E questa qua è questa, c'è la batteria a scarica. C'è la batteria a scarica forse. Adesso cosa stanno usando? L'Intec. Sì, sto usando il 540, il 68, e provo un altro microfono. Non è male però, No, è una radio normale però limpida. No, va bene. Già va bene già. Ma è un microfono amplificato. Sì, vabbè. Io ho messo il mic normale adesso. E va benissimo. Questo è l'originale suo. Va meglio questo dell'altro, che mi è più chiaro. Ma quello te lo do. Con che non metterlo da parte, la cosa di Nimbai. Super Civic. Ho messo anche l'IVA per quel microfono, adesso è arrivato a 2,50. 2,50 più IVA. La bufone da bufone si paga con 200 euro, ma quella stampa è tutto. Non ho capito, ragazzi 200 euro che cosa? La stampa è tutto. Oh, incazzo. La mano d'opera è tutto, lui aveva 178 più IVA. E arrivava a 190 euro, non so se c'è 20, mi ha fatto pagare la mano d'opera, che ho visto come era. Non provo lo stereo per vedere se funziona la colonia. E non... Avevo attaccato male il filo. Prova, Fra. Qua guarda questa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prova radio. Qua è buona, ultima. Questa è la minima, aspetta un attimo. Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. La prefica non è così potente però, diciamo. Ma è buona la radio, la verità. Ma c'è la batteria scarica qua. Ci vuole la batteria nuova qua. Però è la radio ultima. No Gianni, parla più vicino Franco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso è per l'amplificato. Ma che stai a vedere? Ma va come te? No, sto uscito male. Vedi, stai in mezzo a leva. Adesso è bello. Cazzo di... Va bene così. Prova adesso, se va meglio. È più forte. Ancora bene, va così. Al massimo. Così. Adesso è a massimo, sì. Va bene. Bene, va questo microfono. Per lo forte. Che bella gamba. La puoi olive io. Cosa? Va, nato in bagno. Guardate, va da bene già. A tu, da te come il segnale? È forte, è una bomba. 40 radio 5 con 68 sto usando già, quello è con 68 modificato, questo sta dando 7 watt modulati. Allora io vi saluto perché mi sto addormentando, non ce la faccio più. Dai, buonanotte a tutti in generale. Io chiudo la trasmissione, ciao ciao, non ce la faccio più. Ciao a tu, vai tranquillo, buonanotte, buon lavoro per domani. Ciao a tu, buonanotte dai. Ciao ad ascoltare prossimina. Ciao ciao ciao, buonanotte a tu. Vai Gianni, quindi va bene questa? Sì sì. Quello è quel microfono della danza, della cosa, della... Manisi. Sì sì. La batteria nuova ci vuole già. Questo va bene anche per mio. Questo va bene anche al Galaxy. Io ci rubo il Galaxy, sono già anche i ping. E c'è la batteria scarica, Cava cava, già spinge questa bastana. Se no, questa qua spinge ancora di più. Hola. Ma non vai quel microfono, adesso sì che va bene quel microfono, confermi tu lì. Ciò che forse per tutti i capi è buono. Io lo credo già. Che microfono è questo? Qual è fra? Io? E io? Quello che ha dato Manu. Ma quello che ci hai puntato a fianco? Cappa. E quando schiacci fa il più casino? Se lo schiaccio sì, va. No, così è normale, guarda un po'. Poi se vuoi quella musichetta, fai così. Cazzo di casino che fate, infatti la volevo eliminare qualcosa lì, cosa me ne può. Ma se non sta, basta non toccarlo se non interessa. Va bene, lascio stare quello che per non fare male va bene. La preamplificazione è un po' bassa magari perché c'è la batteria mezzo scarica, comunque va bene, mi sta ascoltando, è forte come la radio, va bene. Cappa. Tu sei tutto, pilota l'altro, dai. Mi tacco il butto della roba e metto l'altro, e poi devo riattaccare l'altro. Prima Antonio è andato via. Gli Antonio è passato in QRT. Domani si trova già tutti. Ha ragione. Cava cava. Ok, dai. Attacco l'altro microfono. Cappa di Rossi. Avanti già. Intanto non è gara pure di poveraccio. Mia. Come lo capisco? Oh, stavo incazzando, ho detto che stavo facendo male, te l'ho registrato, ho detto mica io ma non te dico. Poi dopo quando ho cercato ha migliorato, ho detto che stavo io ma non te dico. Vabbè, è fatto così, ha detto, magari gli dà frutta, capito? Non lo fa per male. Io lo conosco tanti anni e magari se la prende un po' a cuore, mi capisco. Sì, perché molte persone perché stanno facendo bene, e tu non ci mani, lì stai facendo male, vedi, tocca qua, tocca là, invece no, sei perfetto. No, bisogna dire la verità, è meglio una contabilità che una falsa cosa detta bene. Una bella bugia. Esatto. Sì, ma io allora volevo intervenire, ma non sono intervenuto perché ti giuro, era meglio quello che stavo guardando la televisione, ho detto tutto. Ah, no, ce l'hanno fa il 6. No, no, ce l'ho finito, da c'è da me che c'è un po' su, su, su, su, Rai 4. Ah, capo. Ma è facile, no? Bene, io dico sempre la verità. Se uno mi non mi arriva male, quindi anch'io poco fa che lo sentivo gracchiare, anche a Franco, tipo. Però gli altri sentivo bene. Quindi non mi prendeva la me. Esatto. Da questo che mi sarà un modo parallelo. Aspetta. No, sì, ma scusa, queste persone sono serie, posso dire sì, sta facendo bene, sta facendo male, tocca questo, lo tocca l'altro. E invece se ti dire no, sei perfetto, tutto è fatto. Allora, queste cose, sapete, sta scoperto che sta bene. È meglio che lo fa meglio, più o meno, non si incazza quello di più. Così va bene, dai. Perfetto, tu ti trovo Franco. Mi ti stavo dicendo, se ti gagli muto, non hai sentito? Ega. Mi se ti gagli muto, stava bene. A me? E chi l'ha detto? A voi. Avanti, chi l'ha detto, oh, se ti gagli muto? Ma ne hai coglione per dirlo. Molti, eh. Boh? Vabbè. Le persone, devo dire, quando io sto in ascolto oppure sto in Corix, quando sto parlando io non posso sentire cosa dico. Ah, 7,3 ti trova, non è da qua. Allora ce la piglia il culo, 7,3, 3,0, quindi ce la piglia il luce. Come va? Come te? Oh, già entro poco tra questo. A chi parla di chi vuoi fa carezzare, non impara, allora sei ginocchi. Ecco, solo con le persone dico io. O là, al limite, posso la telefonata, posso prima. E io non la faccio apposta, lasciamo te. Sì, ma già lo sai, no? Quando mi traccio qualcosa, ti chiamo al telefono, sono a Franco. Baracchino, lo uso così, tanto per non me la fuggire. Va. Io? Va. E si sta qua. Può stare anche tranquillo. Lo so. Ma siccome c'è poca persona gelosa, capisci? Ma voi c'è Nottoni, quindi quell'altro microfono va bene? Cappa, è corto per radio. Ma il secondo, credo che fa della musica. Infatti quando ho aumentato il sito, però chiaro era modificato. E invece l'altro, già, quello che ho fatto io, non va bene con l'altro piccolo. È chiarissimo, però non è molto modificato. Secondo me è la batteria che non serve. Cambia la batteria qua, capisci la domanda? Infatti. Invece quell'altro, quello con la musichetta, l'ho sentito che spinge bene, perché c'avevo le cuffie. Ho detto una da 2,5, che c'è. Ma deve essere che metta. Eppure è buono, l'ho messa nuova, eh. Vabbè, ma che ne tu. Mi sono sempre andati bene. Comunque quello lì è molto chiara, la radio presente, è molto chiara, però non è amplificata. E allora può essere che si scarica con la batteria, eh. Se la scarica del tutto non lo riuscivi neanche, mi ha no, Franco. E infatti. Comunque come microfono mi piace più quell'altro. Quello che c'è tutta? Sì, lì c'è scivolti, E questa è anche per le scatoline delle persone, capito? Infatti quello non fa male a balle qualcosa. Già va bene. Comunque adesso non dovrebbe dare più problemi quel microfono già, No, non dà. Se 60 metri. Basta battagliarlo, tu non hai voluto tagliarlo, cosa ti dico? Ma che cosa tagli fra che dopo rimane il riccio? Non rimane il coso per saldare. A me non mi piacciono questi fili. Per mettere questo filo lungo così preferisco mettere un filo di quelli normali, senza essere arricciato. A me piacciono più quei fili normali di chi si è arricciati. No, comunque Gianni, tu insegnare quello uguale lì dopo Franco. Infatti c'è parato tutto. Veramente, involontariamente. Non ci desideremo una lacrima. Ebbene, siamo vicini. Lo so. Quindi anche per quello. Comunque c'è una bella radio adesso qua. E anche i segnali sono buoni. Vabbè, a parte quello come microfono pure l'ultimo. Sia il tuo già, quello di Franco. Vabbè, quello che sto usando io sto usando un MC60, Una bella radio. Io adesso sto usando un microfono CB8. Dici se... Il tuo non è preamplificato adesso. No, questo qua è il mic originale, capito? io metto questo quando mi voglio tradire a poi nel letto. Quindi quel Cedric davanti lo porti, Tony, me lo dai, hai detto di sì. Ascolta, sai che sono calmo, non mi voglio agitare. Ma io ho fatto da brava. Ma io lo so, guarda. Ma c'è bisogno di farla, che vuoi da cavotti. Gianni, sacca la badetta. Oggia, sacca la badetta, io. Ecco, se ne prendi, ma tanto. Ce l'ha attacco io, metti sotto a reggio, mi sa attacco io, che lo sai, no? Sacca, mia moglie ad alzarmi. Oh, yeah, per carità. Ne arriviamo bene, dai, arrivate tutte e due bene. Oh, yeah, già va bene. Cazzo, oggi so come stai, non mi so come ho riposato, sempre svegli, so. No, io sono riposato. E mi sono appena riposato, guardo la televisione e poi niente, sono finto che devo uscire questa la Manuele e ce l'ho mangiato con qualcosina così al volo. Esatto, come erano quelle cose buone? Ah, abbastanza. Perché io dalle 2 alle 4 ho fatto. Cazzo di brutto. Un così. E ogni tanto, perché stai pescando qui? Sono troppo vicino alla separata del Tarantino. E quando lo metto, io quando lo mettevo, e allora io non c'avevo di polo dentro casa, facevo quel lavoro lì, in mercato e travo dentro alle cuffie. Ma io di polo ne ho. Vuol dire che prova a mettere un filo di massa dal microfono alla carcassa dell'apparecchio. Io dovrei eliminare la tua massa qua davanti e metterlo dietro. Allora. Prendo un pezzo di filo, vai guardi di guio. Lo aggancio alla carcassa del baracchino e alla carcassa del microfono, di quel preamplificato. E vedrai che non ti rompe più le balle. Te lo dico perché lo facevo anche a me in campagna, giù vado su Bravaglio e non me l'ha fatto più. E dove ci prova a vedere, dai, facciamo questa prova, tanto filo di che già ne ha tanto. Abbassa un filo fino, poi bisogna un filo grosso. No, io ho quello proprio finissimo che si usava nelle trattoniere quando c'era ancora il reattore. No, va bene, no, va bene, Lori. E tu già cuccato sei, Matteo. E allora? Io pure sono cuccato, mi ho sdraiato pure di giorno, a parecchio, va bene, va benissimo. Lascia, io lo stesso. Io mi sono fatto cazzo. Che bello, cazzo, cuccato, così già è bello. Arrugaggio, pieni caldo e tutto caldo, che bello. Adesso questa fuori, piglia freddi, chissà camera ve ne ha morito. No, ma tu quando attacchi anche dal tuo papere te la c'è caldo qui, ho provato un pochetto così. Fa durare cirrui la cradì. Non ho capito perché poi non mai ti facciamo la faccia rugliata, no, la rovino. Poi ho pensato, ma forse è una farina che è rosa. Giulia, chi per farà di stasera anche 4 sigarette, cazzo, il giramento di balle che. Comunque stasera mi sono potuto mettere un cialotto io dietro da Manuele, quindi le picca perché è recente. Dovevo fare la foto alla ferita, che pensavo che è minore, una massa di rifaglia. Tanto è 20 centimetri. No, è cazzo che ce l'ha. È un taglietto di 6-7 centimetri, però è forse vicino proprio schema, avevo chiesto. Chissà cosa mi ha toccato che mi ha tomato il gioco dei lì a me. Avranno fatto con la legna, una che l'hanno tolta, se ne sono rimaste due. E le altre due erano piccoline, ma il canale era abbastanza grande, non lo avevo fatto io. Dice da fatti questa più grande, che anche calcificata dal filo, che sarebbe una rassicata. Adesso lo so che ci vuole il suo tempo, e quanto ci vuole, adesso io ve lo dico l'appuntamento al vero, con il chirurgo che mi ha operato. Adesso mi dirà lui perché è nato questa sua poi cosa giovane, grazie a fatto di Dio, non mi ha fatto nulla, volevo sapere il perché, o quanto sono preferito e saranno. Non è mia defezione direttamente per la notte. Cazzo, sono cose lunghe quelle ritorni, non è che... sono interventi delicati, capito? Se mi dice che sono da fare altri 2 euro, mi è... ti giuro, fra, ce lo faccio il suo lavoro. Ma come mai non te l'hanno fatti? Ha detto che non ero da fare. Allora, ce ne è detto così e così. E io quando sono adesso alla laboratoria c'era un monito enorme e c'era la lastra mia proprio. E mi ha detto, questo è la sua, questo dobbiamo... devo operare, devo pulire qua. quindi era quella lì che l'ha fatta credere. Beh, già sono bravi lì già, non so come ti assassano io. E la mia dottoressa ha detto, con me è stato fuori a operarsi, perché io in Sardegna non mi fido, il tuo cugino l'ha rovinato, sia stato che a Cagliari. È andata a Monza e ha detto, chi è che l'ha macellata così? Questo si usava negli anni 50, e siamo poveracci, abbiamo pagato per questo diotto dentro la placca di titanio, e si stava sempre male. L'hanno peggiorata a Cagliari, poi l'altra volta l'hanno portato un poco male. Questo io. La mia sorella lo stesso, che è entrata qua, se saranno rovinati. Per carità. Gianni, tu dici però da casa invece. Gianni, chi ti sei proprio? Una radio accesa. Attenzione, doppio! A me rispondi dai, già posso di Gianni. Davvero mi. Dai, già rispondi tu, svegliati! E tu che da sul radiente, tu la fai di vano. E poco drombe su Gianni. E c'è tutti dove a che aria già denuncia dai. Ma ah, che troppo cane in piazza. Ah, ok, non vai su, è intelligentissimo, cazzo, bello veramente, bravo, cazzo, non rompe le balle, è tranquillo, è tranquillo, no, no. Sì, ma ci vuole. Cazzo, siamo una zampa, la pirata, da un bacio, è intelligente, cazzo, è obbediente, come la fischia, cazzo, lui, adesso perciò non ci sono sceso, giuro, mi ha dato da solo. Fatta, era giù, ha fatto bisogno, l'ho fischiata, subito è salita. E il bucale che me la picchio? Tanto è appeggiato a altre leggi, non ti preoccupare. No, guarda, ti manca solo la parola, dico. E poi parlo di chi invece è giusto, mio papà. E dicono, meglio un cane amico che un amico cane. Allora, addirittura il mio, quando lo scendo giù, no, che scendiamo assieme, lo porto su, arriva la porta, lui mi dice, io dai, apri la porta, lui prende e apre la porta. No, si vede che voi è un po' troppo pieno. Ma tu non ci credi che fa così, lo porto giù, dico, aria, io apri la porta, apprende e apre la porta, e c'entra dentro. E io me lo posso immaginare. Ho visto che quando lo chiami, subito adesso adesso, buono vestito, sarà vista, è fatto quello che dici. Ero abituato io, poi quando apro lo sportello della macchina e faccio col dito così, subito dentro. Fai il giro mio. Apro il cancello, invece che avessi da me, se ne funziona la macchina. Ne avevo uno, gatto, era intelligente quanto questo. Ma ne avevi uno da caccia che quando lo chiamavi non veniva mai, gatto. Come scendeva la selvaggina se la mangiava. Questo non cade in voi, quando lo portava a Pernici, no? Andava, riportava, arrivava un punto e non tornava più, ha detto, ma la pernice non arriva più, già mangiata c'era via. No, io quello che mi hanno ucciso, quello sì che era intelligente, ma bravo, e tu sono quello sì che gioca a sinistra, o forse mi sono proprio. Sì, giocherellone sono, insomma. Però sono medico. Eppure quando si corre uno con l'altro, che si può guardare. Pare tu lo so. Quello bianco è. Che c'è? Quello nocciolo è bianco, quello è bello verso. Quello è un bel furbo, guarda poco è veloce. Quello marroncino è sempre bianco. E chi? Sui sette più poco che. Ehi, ed è più veloce quello lì. Il nero non riesce a sentirla. Che te tanto usata, una motocicletta a bariche. Beh, adesso che c'è preso il tuo io dentro, poi dove c'è manco, non rientro, lui sta per in campo, si campa, da giampa, dato poi il casino, cazzo. Beh, e qua l'antenna che c'è tu, li puoi mettere anche il radiale da 2 metri, da 1,60. Cioè, hai detto che mi c'ho due radiali sopra il tetto, va. Io devo salire adesso, in settimana, se ce la faccio, alla prossima. C'ho ancora due radiali, devo andare qua a 5 nuovi, nuovi, nuovi. E pare così. Però c'ho quelli in più che avevi dato a me, se non potete aperti qua. Ma questi sono grossi però, mio, a tutta volta. No, quelli sono alluminio. Ma sono grossi però, non so sì. E io sono andato bene. Ma quelle fibre di vetro sono meglio secondo me, perché sono caricate, capito? Intanto, devo sempre mettere un radiale perché uno me l'è parato. Preciso perché io mi sono sollevato l'antenna da solo. Quando per esempio tu mi do due pollici, mezzo mi ha sbilanciato sollevandola, mi è scivolata, se no come posso fare? E quindi questo colpo che ho dato sulla rete automaticamente è deciso radiale, questo non è stato bene, l'ha già stata, voglio aver parlato. No, l'ho lasciato qui, no. E così va bene. Allora, il problema della manto va a 5, il radiale, quindi sono caricate, praticamente la scarica del radiale della manto va a 5, se tu li vuoi mettere in alluminio, devi portarli a 1 metro, a 2,75 per rendere. Che è fitta, è un pezzo. Ma lo sai che tu rendi, se vai usci, uia. Ci metterò chi sparezza per la butta, lì già lo sai. Vedi, è sotto di gestione. Ma infatti il piano di massa, però se c'è più piano di massa, automaticamente c'è più ricezione, capito? Infatti io con l'antenna la voglio piazzare al centro, dove c'è la terra dei limoni che ormai non cresce più. Infatti voglio fare un bel fritto, un po' meglio. Io quello che ho pensato io, volevo l'intenzione di portare il radiale a 1,60 m per avere più ricezione. Ma la camera va devo salire, risalire, uff. Ma tu fai già bene così qui. A proposito, ma con quello te ne hai parlato a fare? Sì, sì, arrivo bene a produttore. E tu ricevi bene? Sì, sì, benissimo. Allora, a muro se arrivo a Santiago 9. E che ultimo bisogno? No, c'è una bella posizione alta, tutto il resto. Io produttore c'è tutto il giorno negato, Falghiero non ne parliamo. Ho tutto alto, è buono, il muro ci arrivano 9-10. Però... Tanto ok, però fuori, no. C'è la posizione, vuol dire un bel cazzo, guarda che schifo. Prima di andare a avere l'antenna, poi la zona già è buona, non è già un po', non va subito, è stato più subito, non è balle piene di stare a salire, a riscendere, ma va bene così, avevamo le ghibi l'antenna. Cioè va bene, senta bene, è perfetta, hai cambiato totalmente, ma è tutto per, a parte sì, più ordinato che in casa non c'è che il capo in terra. E tra l'altro poi trasmetti che va meraviglia perché l'antenna sta lavorando veramente bene su questo, è messa bene e lavora bene. E stai bene anche tu. E ho fatto un bel lavoro con l'antenna, cazzo. Un bel culo mi sono fatto, però l'ho tutta vulcanizzata, ho messo grassi, riluscio, siliconata bene, cazzo. Non è traendo, tranquillo, ho fatto un bel lavoro. E poi mi tratta di cuore, quando lo so, ti raglietto, lasciai vivo. Arriva Pio, cazzo. Ma io so che ho messo musica, se vuoi entrare, se fa compagnia, se no, tanto non ci disturbi perché sei Pio, segnale. Non tu arrivi a poco scala, va fuori a franco. Cazzo, però c'è un salto di io, vediamo. Tuia, no, siamo vicini, ecco, siamo vicini, siamo diritti come te, ecco perché arrivi forte qua. Vabbè. Allora sto facendo con 10 watt, non di più. No, non aumento, già va bene così. Se dopo voglio aumentare, non ci devo cercare di watt, non so. E se no ti ricordo se ti convento, sei vento. Se fa 1000 devo cercare tranquillo, e poi 1000 non c'è più l'antenna. E poi si scioglie. E poi si fonde tutto, questo è tutto la raccolta. E poi anche il capo, dai, non è decepito. Si va a 5 gomma. Già quando andava a 400 come a cadere, vivo, non è capo a sopportare watt questo. Va bene, bene, dopo qua. E sono, mezzanotte e un quarto, io. A mezzanotte e mezzo mi ci trovo. Questo è allucinante, io. Ma oggi ho lasciato la stufetta accesa, come la cosa aperta. E a posto, c'è caldo, ci sta bene, sotto il letto, nella sotto coperta. Ma la stufa sembra così con la zibra, quello che scalda un bel cazzo. Guarda, quello che sei cucina. Sì. E adesso non sei quello che stavo. Ma io ti ho un po' di odore, però. E lei perché deve aprire la finestra, oppure accende il terrazzo. Quando sto facendo un problema, infatti lo vorrei eliminare io. C'è un sensore sotto. E tu come la muove si spegne, capito? Per sicurezza grossa. E basta grandirlo e ponticellarlo. Ah, lascialo così. Non se ne è giusto la posizione. Sì. Quello fatti ti apri le casse, le porte tu, e ti apri casa dentro la casa. Ma no, infatti che cosa non vuole, e se lo guidano i fatti, che altro. Quando che c'è il camaratone, sono da un casino, quella lì. Io se mi soffro male, sto per me, sono per estraviare. Sto per altri, no, perché devo lasciarlo lì sul piano. E anche ci ha di bene male. No, va bene, è questo. Io c'ho il microfono a tavola, però c'ero sul comodino, capito? E ce l'ho vicino. No, io... mi sono per il video. No, come stanno a letto qua, va bene, il microfono normale. Io sto parlando a 30 centimetri dal microfono. Io sto passando a lungo. Emanuele, Emanuele, c'è sistemato a me pari. Cosa? Emanuele? Ho detto sistemato c'è. Ehi, cosa sistemato? Sì, ascolta, però a me non mi sente comunque. No? No, perché a me sono sempre quelle di polo, capito? A me si sta. Sta strano, beh. Sì, a Luca Fritta le avevo così. Emanuele quando era l'altra casa le parlo con lo scala, però lì è una posizione. Comunque c'è, ho visto il palazzo, cazzo se vediamo qua. C'è il coso dell'ascensore, là si potrebbe mettere una bella bumera e chi vi farà bene, anche basta anche. Ma lui non vuole rompere per nessuno e qua le farà sotto tutti i cazzi di più meglio e così. Allora non si esce. Cosa da fare? Cosa da fare? Rimane così e buci. È solo che è più che PMR basta. Con quello anche con la base magnetica, lo ho io, perfetto, lui qua arriva a Santiago 4-5, ma era del 5 pulita. Sì, vabbè, quelli sono di diversa frequenza. Sì, era vabbè, solo lì ci poteva sentire. Maracchino, mi fa, zero. Non ce l'aveva la veloce, là usciva forte, là mi arrivava forte anche a me. Purtroppo, ed è in sottena che si piazza qua. Quella la volta in campagna io, allora, col tubo, c'è già il tubo, è bene da su. Mi sa che mi dacci sul tubo, dove non c'è la piglia il culo. E da, poi si piazza l'altra cosa, ed è più fitta. Dovete sentire da giù che sta arrivando. Beh, ci verrebbe a bomba. E lui e io, va bene. Però che tornando a ribadire, non è vale la candela a spendere soldi in baracchini, come le piace una radio seria e questi baracchini non valgono niente, che ragazzo baracchino, basta giocato con i baracchini. No, ma me io voglio modificare questo mobile qua. Quando l'ho modificato te lo faccio mi dico io. Accetto questo prezzo, vedete? Rimane un bel pannello, ti spiego. E poi per chi sono pure. Oh, e da lì non posso che. Ho detto spendere soldi in baracchino, e vale la candela, perché uno si prende una radio seria, la fa una volta, la spesa e basta. Buh. Vabbè. Vabbè, comunque avere due, tre, quattro, tre baracchini predisposti, buoni, quindi ti fa piacere, dai. Sì, quello sì, è stato un breve dubbio. Ma spendere soldi di nuovo, si è aggiornato troppo di là in baracchini. Ah, io guarda, mi sono rifatto un codazzi, ripeto, che ce l'avevo tantissimo tempo fa, la sera l'avevo venuto a Manuela, poi dopo c'era la figlia a Milano. Già tutto in aereo e ci ho trovato a Milano, gli occhi. Anche il più 3, mi sono pentito, e lui ce l'ha pentito, però sono contento, soddisfatto perché l'ho recuperato l'altro, quello che dice tu, visto c'ha le luci blu, se guardi bene bene sopra. Sì, sì. E poi messo bene, uno fa il 200 euro e qua. Ma è bella quella radio, dai. Non è brutta come radio. No, a me piace. fuoco col carne, è una povera. Andava bene. Ma quella c'era la radio, l'hai presa? No. Quando ho preso con l'antenna, questa radio non ce l'avevo ancora, questo canale. Stavo usando il Connex. Sì, ma stavo dicendo, ma il microfono assieme con la radio era? No, il microfono originale suo e basta. Poi questo sono andato da un'altra persona, me l'ho regalata. Basta. Non si trovano più i microfoni. Difficile. Questa è una parola vera, in realtà, capito? Infatti c'è quel posto. Io avevo quello grigio, l'ho venduto, l'ho venduto. Ho visto questo superiore, allora l'ho confrontato. Quello è molto superiore, sì, a quell'altro. No, ma tutto cromato poi, questo è bello, no? A pensare io gravi uno di questo, lo sai. E io fino a fatto. Dato l'avevo, detto, non so di cosa va. Ah, quel microfono l'avevo dato Alfa Romeo, non so se lo conoscevi. Alfa Romeo, conoscevo Alfa Romeo che era anche CP, ma che era di amatore. E a lui l'ho dato, sì. Abitava a Castel di Piccolo. Poi a Postino e poi è per il fuoco, non ho più visto. Ma sempre fuori, non ho più visto neanche io Alfa Romeo. Però no, e va a trovarmi in stampa a casa. Come si chiama? Cura di testa. Ma che abbiamo combinato con Alfa Romeo, cazzo, mamma mia. Quando è il padre era radioamatore, Beniamino. Cazzo, Beniamino è il padre. L'ex finanziere. E poi che la vince, la tenne che va via, con il rotto ordine a mezzo, anche a Palazzi, poco vinci che aveva vinto. E andava. Noi c'aveva l'apparecchio CBE, microfono CBE, noi c'aveva tutta la linea Yaesu, cosa ne aveva del roba? Casa un bel piccia. E davanti, invece nella piazza, c'era cosa, vedete in quella discesa che scendeva giù, c'era finita, piccolo chiuso, abitava là, però me. Poi invece l'altra parte, dall'altra piazza, c'era sempre un vetro giallo. E la madre che modulava come Elettra. No, non li ho conosciuti qui. Qui mi ha conosciuto anche a Charles, a Luigi. Papà. E io sono fino a fatto. Oh, anche Charles Brown. E io mi siete pariti a loro. No? Forse hanno smesso per tutto. Charles Brown, cazzo. Luigi Charles, cazzo. E mi erano un po' guglietti, cazzo. Asso. Fioccia, Giuseppe. Giancarlo Tucatucca. Barbera, Cerotto, Luisito, Trascuffia. Luisito era il padre di Torre Sasso, Luisito Sasso. Luisito abitava in via Egizia con il fratello. Rimaneva quasi di fronte dove c'era, che adesso c'è un palazzone enorme, c'è anche una macchina. Di fronte, allora lì in quel palazzo c'era la rimessa della macchina di polizia praticamente. Lui si capiva un po' di pronto e un po' più avanti, però questo è capacissimo. Già me lo ricordo che abitava. E se andava ancora più avanti, via Quasimodo, più o meno lì, lì ci abitava Italo Light, nonché Ancora. Esatto, sì, e lo conferma. Poi la Gorgia, la Breccia. Giovanni la Breccia, sì, sapete. E Italo Light, Ancora, trabaccava esattamente a San Camillo, era un produttore di caldaie da fuori. E guardami va, quella è la gente mia, è molto, no? Sì, certo, sì. Anche come Salvatore Saturno, che lo faceva. Non so ora. Ah, Saturno. E quello che c'era San Camillo invece, c'era quella radio, chi era quello, non a me. Beh, non è più San Camillo, abbiamo faceva San Camillo, non so. Sta dicendo San Camillo. Ce n'era uno che modulava per trasferire San Camillo. Aspetta, non me lo ricordo. O forse a me non arrivava, lo abitavo io prima. Italia, non mi ricordo il nome tipo adesso, non mi viene in mente tu. Poi c'era Filanera, Macallè, Ostro, che quando entrava della Pierodraga diceva Ostro. Fatto Pierodraga, poi era mancante, cazzo. Entrava come zizzo, la palazzola, e lei si sarebbe così, cazzo, cristiano. E il fratello di cosa, Ignazio Spericonzale? E il fratello, Sì, sono parenti miei. Sono di primo grado della BA50. Grazie. Come ti chiamo? Ricordare, Ignazio. Ignazio, ciao, un anno meno della mia 50. A me, Marina, Ignazio. Ci siamo congiurati assieme con Ignazio. Tu è partire via Capitano, poi partito, Monti Apollo, adesso è quant'altro Monti Apollo. Cazzo, non l'ho più visto un verso. Provincio, sono cambiato adesso. Boco e asso. Ma Mario, fratello, è più alto. A Mario già lo conosco. Cioè, Mario Barbariccio. E la moglie trova come Pasquetta. Poi la tua fratella che sta giù la zona di Tavolizia, ma ti ha trovato un po'. Ma tutti quanti ha abbandonato. Ma invece c'era sempre il baracchino, però non si è mai più che è stato a te, non è stato niente. Se esco da un altro. Cibici, ma comunque diciamo che il 90% dei cibi sono in ascolto pure. Quello senza un po' di dubbio. Ovviamente non entro, ma perché vedo la porcheria che si è fatta questa resistenza. Siamo pochi e voi, per carità. Ma infatti, ma c'è più nessuno come prima, ragazzi. Ci sono persone che non dialogano, non fate nulla, non parlano, sempre amate queste cose, ragazzi. Ma parlate un po' di elettronica, un po' di antenna, un po' di vizio, andiamo bene, andiamo, cioè non è che rilancio, poi c'è, a parte diciamo c'è anche una maleducazione che prendono i microfoni, cazzo, e non ti rilanciano mai il microfono, non tutti, ma il 99%, è una bacciona. Se ci abbandono, cazzo, quando pigliamo il microfono ti vorrà più. Ho capito già che stai dicendo. Infatti che sarà preso il tuo. Infatti che viene anche a centro, capito? No, il cazzo rubiglia, come da favidà, se ne metti che già pure che la gente che fai per questo. C'è anche cosa, Franco di Torso, non è più in Francia, poi. Lo conosco Franco, lo stesso. Sì, è buono. Non è più entrato, non ho più sentito. E la terra che apre lo stesso non ce l'ha fatto, però non c'è un altro risorso che è un attore, allora mi metto il nome, ma Antonio non mi basta. Non è conosco la cosa. Dove lavoro io sono quasi il risorso. E beh, certo. E via. E vabbè, ma. Mi sono fatto mezzogiorno a mezzo, mi pare che sono tutto e mi sono fatto. Pure io ho letto lì, mi ha letto che sono attaccato i lucci. Cioè le serrandi, diciamo, non lucci, non le biberite, ma le serrandi. Ok, vabbè, Tony, dai. Buonanotte, buon tutto, saluto anche quelli che sono ascolto, che ce ne sono quelli che stanno ascoltando. Tu ci sei stato da parte mia, una buonanotte e ci risentiamo domani se coincide. Ciao, ciao. Ok, bravo, dai, ci aggiorniamo domani. Ciao, buonanotte, allora. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Buonanotte a Gianni e a Tyson, Luca. Saluta, ciao, Angel. Certo che posso ragazzi, non ne vuoi più. Dai, no, che c'è il tempo, dai, ciao, ciao, buonanotte, ciao. Ciao, ciao.